Come ogni anno, nelle settimane a ridosso di Sanremo, alcuni degli artisti concorrenti stanno approfittando dell'attenzione mediatica data dalla partecipazione al festival per pubblicare o annunciare nuovi progetti, l'ultimo dei quali è uscito il 17 febbraio, venerdì 17 tra l'altro, chissà se porterà fortuna questa data, ed è proprio quello di Levante, ovvero Opera Futura. Levante è lo pseudonimo di Claudia Lagona, una cantautrice siciliana che ha iniziato ad acquistare popolarità nel 2013 con il singolo Alfonso e da allora ha pubblicato 4 album, ha partecipato a X Factor in qualità di giudice e a Sanremo come concorrente nel 2020 con Tiki Bom Bom, per tornare poi sul palco del festival nel 2023 con Vivo, piazzandosi al 23esimo posto. Scrive nell'annuncio di Opera Futura su Instagram che l'album si chiama così perché si è fatta ispirare dalla speranza, che dà inevitabilmente una nuova luce al futuro, soprattutto se si stanno attraversando momenti bui, come appunto a lei è successo. Il 13 febbraio del 2022 è nata sua figlia Alma Futura, quindi ha compiuto anche da poco un anno, e a seguito c'è stata la depressione postpartum, prima ancora al lockdown, periodo in cui l'album è stato scritto in gran parte, fino ad arrivare alla rinascita, con la partecipazione al festival, tra l'altro con una canzone come Vivo, che parla proprio della riscoperta di se stessi e delle proprie potenzialità. Dalla speranza si fa ispirare anche per la copertina dell'album, che ha appunto un cigno, dalla poesia di Emily Dickinson, La speranza è quella cosa più amata, e il verde, Verde speranza. L'album ha una personalità forte come quella di Levante, che si racconta istintivamente e senza filtri. Invincibile è il brano perfetto per aprire un album del genere, perché canta la grande paura che fa rimetterci il cuore in questa battaglia. L'amore è uno dei grandi temi dell'album, ne parla con nostalgia come di fantasmi del passato in Mi manchi e Metro e con gratitudine incredula nella canzone che chiude l'album, Irede blu e cuore liquido. Non si astiene dall'inserire nell'album anche canzoni un po' più polemiche, sempre con senso critico e senza arroganza. Scrive in capitale mio capitale, quale causa oggi vorrò sposare anche se non ne so parlare. Ci sono poi le canzoni sulla maternità, appunto, cioè Alma Futura, dedicata alla figlia, e Mater, una specie di critica alle aspettative troppo alte che la società impone alle madri, intrese di rimpianto per la parte di sé che ha perso dopo il parto. Un album, insomma, in cui c'è tutto e tutto parla di lei, con sincerità, con gioia, per sfogarsi e per amare con più limpidezza. La nascita di questo progetto è stata una genesi che ha dovuto essere curata e preparata, per cui è stato necessario lo sforzo di guardarsi dentro e di cercare di capirsi. Il punto di arrivo è quello di un'espressione disinibita e sincera, e di un nuovo approccio al futuro, rasserenato dalla consapevolezza che la speranza è sempre l'ultima a morire.